Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il cinema è spesso definito la fabbrica dei sogni, a sottolineare la sua capacità di creare mondi fantastici e immaginifici, in grado di trasportare letteralmente lo spettatore in un'altra dimensione. Quando il buio riempie la sala e il magico fascio di luce colpisce il proiettore, quando insomma si erge quello che Maximilian Gorky chiamava il teatro delle ombre, per gli individui che siedono sulle seggioline del cinema, inizia un'esperienza collettiva unica e suggestiva. La nostra storia di oggi vi parla del cinema come sogno e suggestione e racconta di uomini che hanno saputo sognare attraverso la macchina da presa, trascinando nei loro mondi incantati milioni e milioni di spettatori. Concediamoci un piccolo salto indietro nel tempo per entrare nel clima giusto, quello dei sogni in celluloide. Partiamo proprio da una data, 28 dicembre 1895. A Parigi nasce il cinema. Siamo lungo il boulevard des Capucines, quello immortalato anche da Pissarro in un celebre quadro impressionista. Una delle zone più affascinanti e austere della capitale francese, non molto distante dall'Opéra. Qui, in un locale che si chiama Grand Café, in una sala sotterranea, il Salon Indien, i fratelli Auguste e Louis Lumière organizzano la prima proiezione pubblica a pagamento della storia del cinema. Il cinematografo Lumière, venite a vedere il cinematografo Lumière. Immagini reali in movimento, una nuova straordinaria invenzione, il cinematografo Lumière. 2000 franchi è il costo del biglietto per quella prima eccezionale proiezione. Il pubblico assiste sbalordito allo spettacolo Lumière. 10 piccoli film, camera fissa, pezzi di vita vera rubati al mondo, portano per la prima volta davanti all'occhio umano l'esistenza in movimento riprodotta fotograficamente. Una leggenda dice che durante quella prima proiezione un gruppo di spettatori fugge impaurito quando viene proiettato un treno in arrivo alla stazione di La Ciotat, non troppo lontano da Marsiglia. Di sicuro, tra i 10 film proiettati la sera del 28 dicembre, l'arrivo del treno non c'è. Verità o leggenda, poco importa. Importano il sogno e la suggestione. Tra quei primi spettatori ce n'è uno, si chiama Georges Méliès. È un prestigiatore, quindi per lavoro stupisce il suo pubblico. Rimane affascinato dal nuovo mezzo, ne intuisce le potenzialità, fa in modo di procurarsi una delle macchine inventate dai Lumière e si mette al lavoro. Viaggio sulla Luna e Viaggio attraverso l'impossibile. Sono solo due dei titoli prodotti da Georges Méliès a cavallo tra 800 e 900. Méliès inventa in un colpo solo il cinema di fiction e il cinema di fantascienza. È il primo a capire che il nuovo mezzo può essere uno strumento narrativo potentissimo ed è il primo a usarlo per raccontare storie. Le storie che racconta danno corpo ai sogni dei suoi primi spettatori, rendendo possibili mondi fantastici e immaginari. Se i Lumière hanno inventato il mezzo, Méliès è il padre di tutto il cinema fantastico che è venuto dopo e che ci ha regalato sogni ed emozioni. Méliès è un pioniere. Tutti noi che facciamo un certo tipo di cinema, che usiamo il cinema per realizzare dei sogni, tutti noi dobbiamo riconoscere un debito con questo geniale sperimentatore. La voce che pronuncia queste parole è di un regista che più di ogni altro viene identificato oggi con la fantasia e l'immaginazione trasportate sul grande schermo. Uno straordinario narratore e un incredibile visionario. È il nostro primo personaggio di oggi. Si chiama Steven Spielberg. Steven Spielberg. C'è un'immagine, una fotografia piuttosto difficile da trovare, che contiene tutto Steven Spielberg. Viene dal backstage di Schindler's List e immortala l'attimo dopo l'ultimo ciak di un'opera monumentale come quella che il regista americano ha dedicato alla tragedia dell'Olocausto. In quella foto, il regista, poco dopo aver gridato l'ultimo stop, viene ritratto semi-accasciato sulla macchina da presa. Il volto contratto per trattenere le lacrime, mentre quasi svuotato, viene abbracciato dalla moglie, Kate Capshaw. Poco dopo, commentando quell'immagine, dirà: mai prima d'ora ho versato tante lacrime girando un film e ho pianto non solo perché si trattava dell'Olocausto, ma anche perché ero consapevole del fatto che tutto si è svolto nel luogo preciso in cui stavamo girando. perché quando si fa un film su Auschwitz si percepisce la presenza dello spirito dei morti. La forza di Steven Spielberg è proprio questa. Al timone di colossali macchine da soldi, spesso coadiuvato da centinaia di tecnici che si occupano di effetti speciali avveniristici, il regista non perde la capacità di emozionarsi mentre i suoi sogni diventano realtà. Così Schindler's List, film a lungo inseguito, che nel 1993 diventa realtà grazie a una straordinaria e unica libertà produttiva, diventa il film della vita, quello in cui Spielberg riversa tutto se stesso. Il pubblico si commuove e Hollywood lo premia con 7 Oscar. Steven Spielberg nasce a Cincinnati il 18 dicembre del 1946, figlio di genitori ebrei, papà ingegnere e mamma pianista. L'infanzia la trascorre in California, tra rapporti problematici col padre, spesso assente, e assurde discriminazioni razziali. Avevo paura di andare a scuola, di tornare a casa da solo e di incontrare nuovi coetanei, perché temevo che seguissero le teste calde che mi disprezzavano e passandomi accanto gridavano «sporco ebreo». Queste esperienze e il successivo divorzio dei genitori segnano nel profondo la poetica di Spielberg, che racconterà spesso di rapporti problematici tra adulti e bambini e di incontri suggestivi tra razze diverse. Elementi che sono presenti anche nei primi cortometraggi, come The Last Train Wreck, The Last Gun, Escape to Nowhere e soprattutto Amblin, durata 25 minuti, il primo film di Spielberg a giungere nelle sale cinematografiche. Parallelamente ai suoi studi, infatti, Steven, sin da ragazzino, porta avanti la sua passione per la camera 8 mm che ha ricevuto in regalo, filmando tutto il filmabile e raccontando storie fantastiche con effetti speciali rudimentali. Gli esordi di Spielberg nel cinema che conta sono legati a una serie di coincidenze. Si infiltra clandestinamente negli Universal Studio, fingendo di essere un galoppino, un runner. Tanta è la sua abnegazione che una volta scoperto viene assunto per davvero mentre studia letteratura inglese al college. Una volta inserito negli studios, mostra tutti i suoi corti. Ottiene la regia di alcuni episodi di serie televisive e nel 1971 arriva la grande occasione quando un produttore gli offre una regia a trabocchetto, 10 giorni per portare sullo schermo Duel, racconto di Richard Matheson. L'offerta viene fatta perché un produttore televisivo in realtà vorrebbe disfarsi di questo copione che piace al suo socio, ma non a lui. Il film, la storia di un duello stradale tra un ignaro automobilista e un temibile camion che lo minaccia a ogni curva, è tutt'oggi un cult movie. Per Spielberg, dopo Duel, arrivano Sugarland Express e il grande e inaspettato successo de Lo Squalo. Il film che lo consacra è però quello che riguarda anche da vicino la nostra storia. Un motivetto storico che si è radicato nell'immaginario di milioni di spettatori in tutto il mondo. Il film l'avrete certamente riconosciuto. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Incontri ravvicinati del terzo tipo è uno dei grandi film di fantascienza di Spielberg. Il titolo riprende una definizione coniata dall'ufologo Joseph Allen Hynek, che sta ad indicare un contatto molto stretto con esseri animati non identificati. Il film, infatti, racconta un sogno straordinario di pace e di fratellanza, l'arrivo sulla Terra di creature extraterrestri benevole e pacifiche che si incontrano con le autorità americane nel deserto del Wyoming, in un momento altissimo di poesia e di intensità. Le riprese del film iniziano il 16 maggio del 1976. Produce la Columbia, che però in quel momento si trova sull'orlo del fallimento. La casa di produzione si imbarca nel film perché Spielberg ha promesso un film di fantascienza a basso budget, sui 2 milioni di dollari. La previsione è completamente errata. Il film finisce per costarne 20. Il set diventa sempre più colossale. I mesi di ripresa si allungano. La notizia fa il giro del mondo e la Columbia si indebita fino al collo. O la va o la spacca, o il film va bene al botteghino, o la casa di produzione sparirà per sempre. Ooh, incontri ravvicinati del terzo tipo è quindi una tappa decisiva per la carriera di Steven Spielberg. Per questo motivo, quando le notizie di un set colossale e fuori dalle previsioni si spargono, viene a fargli visita un vecchio amico, anch'egli regista, anch'egli impegnato nelle riprese di un film di fantascienza, questo sì, a basso costo. Vi sveleremo tra poco l'identità di questo secondo regista, che è, l'avrete forse intuito, il nostro secondo personaggio di oggi. Vi anticipiamo che insieme a Spielberg e ad altri registi costituisce il gruppo dei cosiddetti Movie Brats, i ragazzacci del cinema americano. Con la definizione Movie Brats si fa solitamente riferimento a un gruppo di giovani registi che negli anni 70 si impongono all'attenzione della New Hollywood, diventando gli autori di punta. Portano una ventata di aria fresca sul piano stilistico, assumendo il controllo di tutti gli aspetti realizzativi delle loro opere. Mantenendo grande attenzione sugli aspetti produttivi, riescono a realizzare film di grandissimo spessore artistico che sbancano il botteghino. In altre parole, diventano i giovani uomini di punta del cinema americano a cavallo tra i 70 e gli 80. Tutti amici, tutti tra i 30 e i 40 anni, tutti spregiudicati, creativi, concreti. Oltre a Spielberg, vale la pena ricordare gli italo-americani Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma. A questi aggiungiamo il nostro secondo personaggio di oggi. Il suo nome è George Lucas. George Lucas. George Lucas, per tutti oggi, la mente dietro la saga di Guerre Stellari. In realtà Lucas è questo e molto altro. Tra le altre cose, è anche un grande amico di Steven Spielberg, insieme al quale oggi è considerato uno dei registi visivamente e anche economicamente più prolifici della storia del cinema americano e uno degli uomini che ha cambiato più nel profondo la cultura pop del mondo contemporaneo. I due uomini si incontrano per la prima volta nel 1967, quando un 18enne Spielberg vede in un festival del cinema per studenti alla UCLA il lungometraggio di fantascienza che ha reso celebre Lucas, Thanks 1138. Spielberg, tra l'altro, era stato rifiutato alla UCLA perché non aveva superato il test d'ammissione, mentre Lucas era riuscito a entrarvi. In sala, dopo la proiezione, i due si presentano e si scambiano qualche parola. Avevo solo 18 anni e avevo girato una quindicina di cortometraggi di diverso genere, ma quello di Lucas che avevo visto in quella circostanza li valeva tutti messi insieme. Curioso pensare che quando Lucas vede il primo corto celebre di Steven Spielberg, Amblin, ha una reazione completamente diversa. Lo definisce saccarina, trovandolo zuccheroso. Questo primo contatto piuttosto negativo fa sì che Lucas si formi un pregiudizio nei confronti di Spielberg, così che quando nel 1971 vede per puro caso Duel a casa dell'amico Francis Ford Coppola, vi si accosta con grande scetticismo. Quando Coppola disse che ci avrebbe fatto vedere Duel di questo giovane regista, pensavo che non ne avrei visti più di 15 minuti. E invece mi dovete ricredere. Quel ragazzo ci sapeva fare. E come? Una volta dentro al sistema, i due iniziano a frequentarsi insieme agli altri due ragazzacci, Coppola e Scorsese. Mentre Spielberg con Lo Squalo, Coppola con Il Padrino e Scorsese con Taxi Driver raggiungono un primo successo a livello internazionale, Lucas si ferma ai discreti consensi raccolti da American Graffiti nel 1973. Nel 1976 torna sul set per girare Guerre Stellari in maniera piuttosto rocambolesca. Proprio durante la lavorazione del film si reca sul set dell'amico Spielberg che sta girando Incontri ravvicinati del terzo tipo. I due fanno una scommessa che assomiglia a un patto e che avrà un'incidenza enorme sul cinema americano e sulle loro carriere. Ve la racconteremo tra poco, qui, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi, a Destini incrociati, vi stiamo raccontando la storia dei due più grandi costruttori di sogni degli ultimi 40 anni, Steven Spielberg e George Lucas. I due si conoscono dagli inizi degli anni 70 e la loro amicizia si rafforza nel tempo. Nel 1976 entrambi si trovano al lavoro sul set di due film che risulteranno decisivi per le rispettive carriere: Incontri ravvicinati del terzo tipo e Guerre stellari. Il 25 marzo 1976 George Lucas inizia le riprese del suo terzo film, Star Wars. Il budget è ridicolo, 8,5 milioni di dollari, e le riprese si svolgono a Londra, presso gli studi di Elstree. Il suo primo film, Thanks 1138, è stato un flop al botteghino e la produzione della 20th Century Fox non si sente di elargire a Lucas grosse cifre, nonostante l'eclatante successo del suo secondo lungometraggio, American Graffiti. Vengono assunti attori per lo più sconosciuti, tra cui un ex falegname da poco entrato nel cinema, ma senza successo. Si chiama Harrison Ford. L'unica stella è il grande Sir Alec Guinness. Le scene spettacolari vengono create con procedimenti ridicoli. Pensate che la celebre battaglia della Morte Nera viene girata in un parcheggio e il rivestimento esterno dell'arma imperiale è prodotto con scatole di uova. Quando le spese superano i 10 milioni, la produzione taglia addirittura i fondi. È lo stesso Lucas a sborsare di tasca propria l'ultimo milione. Durante la lavorazione del film, Lucas fa visita a Steven Spielberg sul set di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Si vuole sfogare per la lavorazione frustrante del suo film e vuole vedere da vicino cosa sta combinando il suo amico Steven, alle prese con un film il cui budget si è improvvisamente decuplicato. Quando Lucas vede il set di Incontri ravvicinati del terzo tipo, rimane senza parole per la grandiosità e l'imponenza. George era sull'orlo di un esaurimento nervoso non appena finito di girare Guerre stellari. Gli sembrava che il risultato finale non avesse coinciso affatto con il suo progetto iniziale. Credeva di aver fatto un film per ragazzini. Venne in Alabama, dove stavo girando Incontri ravvicinati, mi raggiunse su questo set immenso e rimase con me per un paio di giorni. Diceva: oh mio Dio, il tuo film avrà molto più successo di Star Wars, sarà il trionfo più grande di sempre. In quella circostanza, Lucas propone a Spielberg un singolare patto. Vogliamo fare uno scambio? Mi propose Lucas. Io ti do il 2,5% degli incassi di Star Wars, se tu mi dai il 2,5% degli incassi di Incontri ravvicinati. Giorni prima dell'uscita nelle sale, Lucas sottopone alcuni suoi amici registi alla visione del prodotto finito nella sua casa di San Francisco. Stavo aspettando, Obi-Wan. Ci rincontriamo finalmente. Ora il cerchio è completo. Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo. Ora sono io il maestro. Solo un maestro del male, Darth. Non ci riesco. È troppo grossa. La grandezza non conta. Guarda me. Giudichi forse me dalla grandezza? Non dovresti farlo, infatti. Tu devi sentire la forza intorno a te, qui, fra te, me, l'albero, la pietra, dovunque. Sì, anche fra la terra e la nave. Alla fine del film, dopo un silenzio sgomento, le critiche non si contano. Brian De Palma sbuffa davanti alla figura di Darth Vader e alle ridicole treccine di Leia. Steven Spielberg è l'unico ottimista, prevedendo un incasso di almeno 35 milioni di dollari. Lucas è prossimo all'abbandono della carriera, conscio che l'incasso coprirà appena i costi di produzione. Lì mi sono detto, credo di aver vinto la scommessa. Ha una meravigliosa innocenza e serenità, proprio come George, e il pubblico lo amerà. Incontri ravvicinati ha fatto un bel po' di soldi e ha salvato la Columbia dal fallimento. È stato l'incasso più grande che avessi mai realizzato, ma poi tutto è finito lì. Guerre stellari invece è diventato un fenomeno e sono stato ben contento di aver stretto quel patto, perché ne sto vedendo i frutti a tutt'oggi. It's a rich man's world. Il 25 maggio 1977, in sole 35 sale, esce negli Stati Uniti Guerre Stellari, il primo episodio della saga, poi ribattezzato Episodio IV, Una Nuova Speranza. All'uscita dai cinema, il pubblico è estasiato. Mai si è vista una cosa simile. Sono tutti senza parole, Spielberg escluso, che prevedeva un simile successo. Parallelamente, esce Incontri ravvicinati del terzo tipo, che, come abbiamo sentito dallo stesso Spielberg, porta nelle tasche della Columbia il doppio dei costi di produzione, quasi 40 milioni di dollari, salvando la casa di produzione dal fallimento. Ancora più sbalorditivo è pensare che questi due film legati da una scommessa cambiano radicalmente la fantascienza. Da un lato Spielberg modifica la percezione dell'alieno, non più invasore e minaccioso, non più metafora delle paure più recondite delle civiltà occidentali, bensì simbolo della possibilità di un mondo interrazziale e interculturale. Dall'altro lato, Lucas inizia la sua saga, che eleva all'ennesima potenza ciò che già una saga come Star Trek aveva creato: il senso di appartenenza dei fan. Lucas, che era nato il 14 maggio 1944 in una piccola cittadina situata nella valle agricola di San Joaquin, in California, ed era cresciuto in un ranch fuori città, in cui il padre coltivava pesche ed uva, diventa in breve uno degli uomini più ricchi e potenti di Hollywood. La cittadina in cui sono nato era piuttosto monotona, come solo la provincia americana spesso può essere. I miei svaghi erano costituiti dai due cinema della città, che fortunatamente mi hanno permesso di entrare in contatto con la mia passione e con quello che è diventato oggi il mio lavoro. Il primo film che ricordo di aver visto al cinema è Le miniere di Re Salomone, ma devo dire che complessivamente, durante l'infanzia, i film hanno avuto su di me un effetto decisamente minore rispetto alla televisione. La prima idea per la saga di Star Wars viene a Lucas agli inizi degli anni 70, quando il regista inizia a concentrarsi su un possibile film di fantascienza basato su diversi miti, fiabe e sulle teorie di Joseph Campbell e Carlos Castaneda. Da quest'ultimo, Lucas ruba letteralmente un personaggio, uno sciamano di nome Don Juan, che diviene Obi-Wan, e la teoria della forza della vita, che in Lucas semplicemente diviene la forza. La 20th Century Fox acquista i diritti, pagando a Lucas $15,000 per la prima stesura della sceneggiatura, $50,000 per la versione definitiva e $100,000 per il suo lavoro di regista. Per lo show business, una miseria. Lucas però, con lungimiranza, fa inserire clausole per l'epoca piuttosto strane, come ad esempio i diritti sulle musiche, sulla vendita delle registrazioni della colonna sonora, sui prodotti legati al film e sull'eventuale seguito del film, clausole che permetteranno a Lucas, visto l'enorme successo di Star Wars, di diventare uno degli uomini di cinema più ricchi del pianeta. Una scommessa, quindi. Uno scambio di percentuali tra i due grandi registi americani, il 2,5% dei loro film di fantascienza. Un gioco, in apparenza. In realtà, è un episodio che permette a Spielberg di raggiungere una solidità economica impressionante, che contribuirà alla nascita della sua DreamWorks anni dopo. Soprattutto, solidifica un sodalizio tra i due straordinari narratori. Un sodalizio che renderà possibili successi come la saga di Indiana Jones o quella di Jurassic Park. Un sodalizio, in pratica, che trasformerà molti sogni in realtà. Dream when you're feeling blue. Dream that's the thing. Destini incrociati. George Lucas e Steven Spielberg. Amici fin dalla fine degli anni 60, i due fanno parte del gruppo dei cosiddetti Movie Brats, i ragazzacci del cinema americano degli anni 70, insieme a Francis Ford Coppola, Martin Scorsese e Brian De Palma. Nel 1976, mentre sono impegnati nelle riprese di due differenti film di fantascienza, Guerre Stellari Lucas, Incontri ravvicinati del terzo tipo Spielberg, fanno una sorta di scommessa, su proposta di Lucas, poco fiducioso nel successo del suo film. Entrambi guadagneranno a vita il 2,5% degli introiti prodotti dal film dell'altro. per Spielberg è uno straordinario colpo vincente. Incontri ravvicinati del terzo tipo non è neanche nella classifica dei 100 film che hanno incassato di più nella storia. Il primo Star Wars, che uscì anche lui nel 1977 con 775,4 milioni di dollari, circa 574 milioni di euro, è al 22esimo posto come valore assoluto di incassi e al secondo posto se consideriamo gli incassi al netto dell'inflazione. Quindi in tasca a Spielberg sarebbero andati nel corso degli anni almeno 19,3 milioni di dollari, corrispondenti a circa 14,3 milioni di euro, senza contare i diritti sui DVD e il merchandising. Lucasfilm e Industrial Light and Magic. Due nomi chiave per l'industria cinematografica americana degli ultimi 30 anni, due importanti società costruite da Lucas. La prima è la sua casa di produzione, che non si occupa solo di cinema. Videogiochi di successo, importanti serie televisive, nascono negli uffici della società di Lucas. La seconda è la più importante azienda di effetti speciali del cinema americano. La scommessa fatta da Spielberg e Lucas, di fatto, li rende soci. Così, quando viene messo in cantiere il primo importante progetto, i due collaborano a pieno ritmo. Nel 1973 George Lucas elabora la prima ispirazione per il personaggio di Indiana Jones, osservando un poster di un vecchio film degli anni 30. Questo gli suggerisce la figura di un archeologo dal doppio ruolo, quello di preciso e impeccabile professore universitario e quello di avventuriero, vestito di giacca e pelle e vecchio borsalino in testa. Quando decide di realizzare il progetto, Lucas veste i panni dello sceneggiatore e del produttore, mentre Spielberg lo aiuta con il copione e decide di curare la regia. Per il ruolo del dottor Jones, come noto, viene scelto inizialmente Tom Selleck, che si ritira all'ultimo momento a causa di un contratto di esclusività stipulato con la CBS, per la quale stava già girando la serie TV Magnum PI. Quando arriva il veto della CBS, viene scelto l'emergente Harrison Ford. Avvolto nella leggenda il suggerimento di Spielberg all'amico rispetto alla scelta dell'attore, pare che rivolgendosi a Lucas, non ricordandosi il nome di Harrison Ford, disse «Prendiamo il falegname», facendo riferimento all'attività svolta dall'attore prima di diventare un divo. «Venite, venite, guardate, guardate qui. Guardate, sedetevi. Venite a sedervi. Cosa c'è?» «Questo è un avvertimento. Non si deve violare l'arca dell'alleanza». E per l'altezza dell'asta che dici, Belloc l'ha rilevata da qui? Sì, è scritto qui. Questa è una vecchia scrittura. Dice che è alta 6 cadam. Circa 70 pollici. Aspetta, ma togliete un cadam per onorare il dio degli ebrei a cui appartiene l'arca. Anche Indiana Jones sbanca i botteghini di tutto il mondo. Ci saranno tre seguiti, una serie televisiva, una serie di fumetti e degli avvincenti videogiochi. Tutto nato dal sodalizio tra Steven Spielberg e George Lucas. Due carriere procedono su binari molto diversi. Spielberg sforna straordinari capolavori che si depositano direttamente nell'immaginario, come E.T., Schindler's List. Lucas si orienta più sul versante commerciale, continuando però a lavorare alla sua saga fantascientifica, che finisce per strutturare in 6 episodi e attorno alla quale costruisce, anche in questo caso, un mondo fatto di videogiochi, fumetti e serie TV. I due si ritrovano però per un altro straordinario progetto, Jurassic Park. Il colossal preistorico che Spielberg decide di trarre dal bestseller di Michael Crichton, oltre a sbancare i botteghini, diventa una vera pietra miliare nella storia del cinema. Il motivo principale sono i giganteschi e terribili dinosauri realizzati proprio dall'Industrial Light and Magic di George Lucas. L'apporto di George Lucas e della sua squadra dell'Industrial Light and Magic al successo di Jurassic Park è stato straordinario e credo di dovere moltissimo alle intuizioni geniali di questo team di innovatori. Un sodalizio vincente, nato da un'amicizia e da una scommessa fatta quasi per caso su un set cinematografico, continua a produrre racconti straordinari amati da milioni di spettatori in tutto il mondo. Vogliamo chiudere idealmente con una ricorrenza. Nel 2005 George Lucas riceve il prestigioso premio alla carriera dell'American Film Institute. A consegnarglielo viene chiamato proprio Spielberg. È un piacere immenso per me consegnare questo premio nelle mani di un grande amico, di un punto di riferimento per tutto il cinema americano. Un punto di riferimento soprattutto per me, perché senza di lui molti dei miei sogni non si sarebbero mai realizzati. George Lucas. È un onore. Ricevo questo premio dal più grande regista americano degli ultimi anni e da un grandissimo amico, a cui devo dire semplicemente grazie. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.